in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone. Une. Venerdì 20 maggio 2016. Questa è la 17esima puntata della terza edizione, quindi è la 70esima. Anno Domini, via via. Enzo e Marcello a Radio F per parlare insieme a voi di tante cose. Anzi, direi la puntata del 20 maggio dell'era moderna, dell'età moderna, e questo mi ricollegherà successivamente, Enzo, all'argomento della trasmissione. Non diciamo altro. Di stasera. Ricordiamo solo che sarà un'ora intensa, come sempre. Sì. Questo è l'inizio della fine. Sì, nella pausa. Del fine settimana, è l'inizio del fine settimana di Radio F. Domani sentirete cose bellissime come domenica. Lo sport sta finendo, è un anno, sportivo se ne va. Ma questo non vuol dire che non sia così interessante ancora la programmazione di Radio F. Ma anche se finisce l'anno sportivo, inizia un'annata, un'estate piena di eventi incredibili. Speriamo che l'estate sia, tra l'altro. Allora andiamo col primo brano e poi introduciamo subito i nostri ospiti. Buon ascolto dalle F frequenze. My finger is on the button. My finger. press on the button. Push the button. Celebre brano dei Chemical Brothers, volevo farla troppo bene. Speed Caravan dei Galvanize. Sì, ho detto al contrario. Galvanize dei Speed Caravan. Ma perché mettiamo Tozzi? Allora io so tutto e non c'è problema. Hai detto ai nostri ospiti. Se dico cavolate, non vi preoccupate. Corrigetemi. Ho iniziato alla grande. Questa è Piazza Alta e l'avete riconosciuta sicuramente dalla mia conoscenza della musicale, materia musicale, soprattutto della padronanza della lingua inglese. Il programma che tutti i venerdì vi allieta. Piazza Alta, che potete ascoltare in modulazione di frequenza in 89.2, yes, in streaming su www.radiof.it. o scaricando, se ancora non l'avete fatto, ma è incredibile che non l'abbiate ancora fatto, con le nostre app per i vostri smartphone. Yeah. E potete anche riascoltare la trasmissione, perché faremo un collage, andrà per intero sulla nostra pagina Facebook. Okay. Ma e potete anche contattarci direttamente allo 0575 648276, oppure mandarci un WhatsApp, un SMS al 392 4900 800. Lo ripeteremo poi più avanti, ma stasera perché siamo qui stasera, questo io sono emozionato perché ci siamo, ma stasera la sento come una puntata particolare. Allora spieghiamo. Parliamo di un evento che ormai è della tradizione, perché questo è poi evento forse anche riduttivo, esatto, ovvero parliamo del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. E siccome Enzo abbiamo, diciamo, un po' capito che fonda le sue origini nel Medioevo, ogni parola deve essere misurata e pesata perché c'è, per non sbagliare. Bravo. Ma stasera, per farci conoscere questa manifestazione e per darci tutte le indicazioni e farci soprattutto, secondo me, cominciare a vivere quella che sarà una manifestazione che ci sarà tra qualche settimana, sì, abbiamo qui degli ospiti. E chi abbiamo? Allora, non sbagliamo, eh? Non sbagliamo. Iniziamo. Per il Rione Cassero, Michele Falomi. Buonasera a voi. Vicepresidente. Che ha la veste di vicepresidente. Per Porta Fiorentina abbiamo Rossano Gallorini, che è responsabile della comunicazione. Buonasera a tutti. Ciao. Grazie. Per Porta Romana invece abbiamo Luca Trippi, che è responsabile delle pubbliche relazioni. Buonasera a tutti. Oh, buonasera. Benvenuti. A tutti. Benvenuti. Allora, per chi non conoscesse il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, innanzitutto diciamo che è una carriera che viene disputata dai tre rioni, non è che ce ne siamo dimenticati qualcuno a casa, sono tutti sono qua. Tre. Ecco, no, l'importante è questo. E quindi il paese è grande e i tre rioni, chiaramente essendo un numero comunque limitato, accoglie tutta praticamente la cittadinanza, quindi saranno anche, credo, ora lo chiediamo ai nostri ospiti, dei rioni molto numerosi, con dei sostenitori e dei partecipanti molto numerosi. Allora, facciamo così, iniziamo a capire di che cosa si tratta. Chiediamo ai nostri ospiti innanzitutto per riconoscere i loro rioni, i colori, lo stemma e quant'altro. Iniziamo dal Rione Cassero e quindi da Michele. Buonasera a tutti. Allora, i colori del Cassero sono il bianco e l'azzurro, e il simbolo è il simbolo della torre del Cassero che sovrasta Castiglion Fiorentino. Il nostro territorio è fondamentalmente la parte alta del paese e la parte sinistra della Val di Chio. perché ricordiamo per i nostri amici che non è, la divisione non è solo nel centro storico, ma prende un po' tutta la zona del comune di Castiglione. Prende sì, un po' tutta anche la periferia. Quindi voi, pur essendo nella parte più storica, più alta del paese, avete anche una zona che invece va all'esterno, sì, che è quella della Valle di Chio. La Valle di Chio, la parte sinistra della Valle di Chio. La parte sinistra. Perché bisogna specificare. Ma noi qui siamo qui per cercare di sbagliare il meno possibile. Sì, sì. Ma okay. Ora, scusa, ho subito una domanda. L'appartenenza ad un rione è, sì, un'appartenenza di nascita per scelta o non so, bisogna essere accettati? Si dovrebbe aprire un capitolo importante, ecco, il questa, cuore, come... apriamolo, su questa storia. Allora, fondamentalmente l'appartenenza rionale si misura con i sentimenti, perché il rione è una cosa che la senti dentro, la vivi tutto l'anno. Parlavamo prima, il rione non ha un inizio di attività e una fine di attività. Il rione è tutto l'anno. Il rione è un gruppo di amici, persone con cui passi, per gente come noi, tanto tempo, condividi emozioni, gioie, dolori. È una cosa, è il sentimento. Dopo sicuramente la nascita, la residenza fanno parte di questa storia, però il sentimento, secondo me, credo tutti lo possano condividere, è la cosa più importante, perché ti ci leghi personalmente. Cioè io vi parlo della mia storia, mi sono sposato l'anno scorso, sono uscito dalla chiesa, c'era 12 sbandieratori, 10 tamburi e 12 chiarini a aspettarmi fuori dalla chiesa, io ho pianto. Che bellissimo. Perché faccio una battuta. No, sta gente aspettati, ma che avevi combinato? E quindi abbiamo un po' inquadrato la situazione del Cassero, mentre invece Porta Fiorentina, Rossano, colori, simboli, sì, e no, collocazioni. Colori molto facili, verde arancione, lo stemma è giglio, ghibellino, bianco, fiorentino. E la collocazione è la parte nord-ovest del paese e, per quanto riguarda il discorso del centro storico, è la parte proprio di Porta Fiorentina, che sarebbe l'ex Borgo di Gracia, che è l'ultima parte, diciamo la parte più nuova di quello che è del centro storico di Castiglione Fiorentino. Quando avete accennato al discorso del perché il paese è grande o quant'altro, però c'è solo tre rioni, non è che una mattina uno si è alzato, certo, e ha detto facciamone tre, no. La prima divisione del comune di Castiglione Fiorentino, quando era un comune libero nel 1293, parlava proprio di tre terzieri, okay, e ogni terziere aveva il proprio priore. E il perché poi il Cassero, per esempio, ha il lato sinistro, diciamo così, che poi non è proprio tutto il lato sinistro, ma insomma una gran fetta, quello che ha detto Michele è vero, non è che ha detto una bischierata. È perché comunque in realtà il terziere del Cassero una volta era il terziere di Retina, che il terziere di Retina era l'unico terziere che non aveva la pieve, cioè vale a dire la chiesa, sì, all'interno del proprio territorio, ma l'aveva fuori, che era la chiesa dei Cappuccini, che okay, era la pieve di Retina, va bene? Perfetto. Poi dopo, successivamente, quando venne costruita la chiesa di Sant'Angelo al Cassero, quella pieve poi dopo in realtà è stata trasferita su. Poi dopo non sto a parlare ora delle divisioni originarie, perché in realtà una volta i terziari erano Mercato, Suscastiglione e Retina, dove tra l'altro quello di Mercato, che sarebbe l'attuale Porta Fiorentina, inglobava anche la vecchia Torre del Cassero. Attenzione! Cioè la divisione di allora non è la divisione di adesso, certo, però attualmente è quella che conta è questa, okay, insomma, ecco. E la parte nord-ovest, per quanto riguarda Porta Fiorentina, dunque la zona periferica che volge verso Arezzo. Perfetto, vedi che man mano iniziamo a capire molto meglio di cosa si tratta. E infine, ma non per importanza, infine, ci mancherebbe altro, in ordine alfabetico, sì, Porta Romana. Luca, dici un po' tutto quello che può riguardare sommariamente il allora, nostro rione. Per Porta Romana i colori sono il giallo e il rosso, il simbolo è la lupa capitolina, e il nostro simbolo poi anche geografico è la Porta Romana, che è l'antico ingresso per chi proveniva dal lago Trasimeno, dalla Val di Chiana, corrisponde, come ha detto giustamente Rossano, all'antico terziere di Suscastiglione, e a parte la parte sud-ovest del centro storico ingloba alcune frazioni del territorio come Broglio, Castroncello, Montecchio, Pozzonovo, La Nave, Pievuccia e Santa Lucia. E appunto, per quanto riguarda Porta Romana, il simbolo della lupa capitolina l'ho già detto. E... quindi mi sembra potrei dire la prima bischierata, quindi hai nominato molte frazioni, immagino sia quello più numeroso forse. Più esteso? Forse no, più esteso, ma un'estensione è... secondo me no. No, secondo me è il Cassero. Sì, forse sì. Dopo come densità di abitanti, no. Sono più parametri come, come estensione secondo me è il Cassero. A metri quadri, diciamo così. Sì. Ok, ci fermiamo un attimo qua, anche perché poi avete usato una parola che è terziaria, che mentre noi usiamo volgarmente, parlo di me Marcello, Rione, ma ora andiamo con un altro brano, così poi ci spiegate che cosa, qual è la differenza, e poi ci inoltriamo, ci addentriamo di più in tutta la manifestazione. Sei d'accordo? Non ho parole. E allora zitto. Da chi? Sono spagnoli, Marci. Allora, allora, sempre Piazza Alta, stiamo parlando, anzi abbiamo appena iniziato a parlare del Palio dei Rioni di Castiglione Fiorentino con i nostri ospiti, dei tre Rioni. Stiamo accorgendo, Enzo, che qui tra l'aspetto storico, tra diciamo l'evoluzione, abbiamo diciamo una manifestazione molto importante. Molto importante. Intanto, chi di voi vuole ricordare quando sarà il palio proprio, la data del palio? Domenica 19 giugno. Ecco, intanto questo, per invitare tutti a partecipare. Sulle vostre agende. Segnatevi subito. 19 giugno. Così. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché poi saranno tante cose che cercheremo di scoprire questa sera, cercando di fare il più possibile. Ci eravamo lasciati prima dicendo che venite chiamati Rioni o Terzieri, sì. Oppure... C'è una differenza o no, allora, il significato? Allora, il significato c'è una differenza di significato, perché diciamo che il terziere, come facilmente intuibile, sono tre parti del paese. Dunque, sono tre parti ben definite e può essere tranquillamente ricondotto, da un punto di vista prettamente etimologico della parola, alla parola contrada, non rione. Però... Okay. Se ora io dovessi fare tutta la storia del perché si chiama Rione o Terziere, non si finisce più. Però il discorso è questo. Perché ho l'eguaglianza tra Terziere e Contrada? Perché tutte e due hanno un territorio definito, come diceva prima Michele, dice noi questo, quest'altro, certo, certo. Ci sono dei confini prestabiliti che a tutt'oggi vengono rispettati. Il rione in realtà è un qualcosa di non definito, ovvero è una parte, potrebbe essere più grande o più piccola del terziario stesso. Ah, ok. Capito? Dunque non ci sono dei confini veri e propri. Però nel 1950, varie discussioni che vennero fatte, siccome per volere della gente, insomma, per un discorso di facilità, perché terziario era troppo impegnativo, no? Senti che parolona grossa, no? E qualcuno disse, ma parliamo di rioni, è più facile, e allora è venuto fuori questo. Ora noi, da questo punto di vista qui, come Porta Fiorentina, siamo un pochino più tradizionalisti, per noi è terziere, esatto. Punto, finito. E sinceramente ne andiamo fieri, ma non per questo che voglio sminuire gli altri due, ci mancherebbe certo. Altro, ognuno ha le sue motivazioni. Però il discorso prettamente etimologico della parola è questo, che potete andare tranquillamente a vedere certo. Su qualsiasi vocabolario o enciclopedia, insomma, non è che dico una cosa così. Ok, qui mi sembra la spiegazione sembra è stato già. Mentre vi chiedo ancora, dicevamo appunto la carriera che si svolge a giugno, la terza domenica, tra le sue origini, se andiamo su Wikipedia, dal Medioevo, però voi ci stavate spiegando fuori onda, e vi prego di farlo anche in onda, che in realtà ha un'origine ben precisa, una data ben precisa, l'inizio di questa manifestazione. Chi ne parla? Indoviniamo un po'. Lo storico. Sempre lo storico. No, grazie per questo appellativo. Lui è lo storico del gruppo. No, sì. Mi fa piacere. Certo. Poi non è, che non offende. È anche il più grande. Sì. Quindi c'era. Forse c'era. Ha detto il più grande. È stato molto corretto. No, allora, il discorso è questo. Giusto parlare di Medioevo, assolutamente. Però, come ricordavo prima, nella nostra chiacchierata internos, quello che veniva fatto nel Medioevo in realtà un po' in tutti i paesi veniva fatto, cioè le giostre in generale, che potevano essere corse di cavalli, tornei cavallereschi di qualsiasi genere, venivano fatti un po' da tutte le parti. Sicuramente a Castiglionfiorentino questo è documentato, c'erano delle corse di cavalli alla lunga che venivano fatte praticamente dalla parte bassa del paese, che ora venivano fatte dal Vingone al torrente Viguro, insomma, vabbè, lasciamo nella parte bassa della parte del paese. Erano corse alla lunga che molto spesso venivano fatte da carovane di zingari, di circensi, per puro spettacolo. Dunque non era riconducibile a quello che effettivamente oggi è il Palio. La prima data certa invece del Palio, scritta proprio dai Ghizzi, riportata nel libro, è del 1864 per la festa dello Statuto, il 5 di giugno. Questa è la prima volta che viene corso in tondo, dunque al Piazzale Garibaldi, o meglio, per noi Piazzale Garibaldi è il parterre, non esiste la piazza dei Garibaldi, però per capire, insomma, venne corso la prima volta nel 1864. Da lì poi c'è stata un'evoluzione del Palio, fino addirittura arrivare ai tempi del fascismo, in cui ha assunto una notevole importanza con il discorso che poi il Duce, come in tutti i paesi d'Italia, volle che venissero rispolverate le tradizioni, sì. E soprattutto diciamo messi a lustro, perché era importante, era questo. E sicché in quegli anni lì prese veramente campo anche tutto il discorso storico, nonché quello medievale, che è continuato poi fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale c'è stata un'interruzione, ma molto stretta, perché poi già nel 48 si riparla del Palio, che poi il 48 ci fu un po' di difficoltà, vabbè, comunque, insomma, fino ad arrivare alla metà degli anni 60. Nella metà degli anni 60 ci fu un po' di problemi perché il parterre doveva essere asfaltato, sicché non sono le tempistiche breve che ci sono oggi per fare una cosa di questo genere, però insomma ci furono un po' di problemi, un po' anche di problemi secondo me organizzativi in fondo. E di conseguenza provarono a continuare a fare il Palio da altre parti, per esempio ci sono delle foto che ritraggono delle corse di cavalli, perché poi in realtà erano corse di cavalli in quel momento, fuori dal parterre, non era più Palio, al Villaggio del Giovane, però insomma la gente voleva il Palio, no? Le corse dei cavalli. Era un po' snaturata. Esatto, sarà un po' snaturata. Sicché nel 77 venne ripreso quello che era stato lasciato, ma non che uno si era alzato la mattina, perché parecchi pensano che uno nel 77 ha detto ora si fa il Palio, buonanotte. Non è così, insomma. È stato ripreso quello che era stato lasciato. Esatto, esatto. E siamo ripartiti da dove era stato interrotto. E oggi siamo arrivati così, a questo paio, lo reputo un super paio sotto tutti i punti di vista. Ecco, allora, abbiamo fatto il punto, no, vuoi fare una domanda intelligente? Vai, prova. Non so se, correggetemi se sbaglio, il paio viene corso in un anello, certo, di tufo, certo, appositamente sì, predisposto. E, ma i cavalli che corrono, quanti sono? Sei. Sì, ecco. Quindi due per ogni e questa è una curiosità che infatti anch'io ho sì. Anche allora, questa è una questione storica. Allora facciamo così, dunque, che bellissimo, andiamo con un brano, perché io dividerei così: abbiamo parlato della storicità, del come siamo arrivati a oggi, e da ora in poi veniamo ai giorni nostri, parlando proprio già, partendo già dal fatto che normalmente uno si aspetterebbe tre rioni, tre cavalli, invece sono sei. Allora andiamo con il prossimo brano, di cui non saprò dire il titolo, ma intanto ascoltiamolo. Buon ascolto dalle F Frequenze. Uno corre nel deserto, lei è sempre più veloce di me. Forte di me. Leonardo nel bidone, il brano veramente, cioè, è ripartito così bene, e il disco è Sogni Pesaresi, presumo sia tre anni, perché un respiro internazionale, si sei fermato sul bidone. Sono di Pesa, ovviamente, perché sono Sogni chiaro. Pesaresi non potevano essere altrimenti. Piazza Alta, Radio F, Paglio dei Rioni di Castiglione Fiorentino. Bene, abbiamo approfondito secondo me abbastanza la parte storica, ci siamo collocati storicamente della festa, non della manifestazione. Bravo, della festa. E siamo arrivati alla carriera, piano piano ci avviciniamo ai giorni nostri. Michele Rione Cassero, qual è il premio per il Palio? Allora devo dirlo in termini fisici o in termini rionali? Tutti i termini, prima hai detto. Allora il premio è il censo. Ecco, che cos'è che muove tutti, che vi muove tutti per questa festa? Uso un termine un po' particolare, ma sì, è la gloria. Bene. Cioè, come parlavamo prima fuori onda, il terziario Porta Fiorentina ha quello che ha vinto più pagli, gli altri ne hanno vinti meno. Il Palio conta quello del 2016. Cioè conta quello del 2015, del 2017. La storia, sì, ok, c'è la storia, ma conta quel principio è quello del qui ed ora. Perfetto. Il principio non è... c'è un palmarès, un album di fotografie. No, essere c'è tutto. Sbiadire, però questo ecco, c'è non, tutto. Non vi diciamo la parte storica delle vittorie vi interessa, ma è già passato. Perfetto. Esatto. Conta il premio principale è la gloria. Quindi mai un minuto di riposo a godere dei pasti degli anni passati. Il quarto lunedì di giugno, perché il palio è il 19 giugno quest'anno, ma è la terza domenica di giugno, il quarto lunedì di giugno si lavora per 2017. L'anno dopo, perché quel palio l'hai vinto, comandi fino al prossimo palio. Per 365 giorni c'hai la gloria. C'hai anche il cencio in sede, appeso, le foto, dimostrabile, tangibile. Ecco, il cencio è un qualche cosa che cambia tutti gli anni o è un diciamo, no, viene fatto dal comune un bando, un concorso tra gli artisti che hanno piacere a partecipare. C'è una commissione apposita che sceglie il soggetto, il disegno che preferiscono e quello viene disegnato e presentato al popolo il sabato antecedente il palio, che praticamente in concomitanza con la gara dei musici sbandieratori, che è il primo. Quest'anno c'è stato un torneo di pallavolo prima, però tra virgolette è il primo scontro, incontro tra i tre rioni che si trovano a tutti insieme nella stessa piazza per competere su qualcosa. Oh, quindi diciamo che la manifestazione è bella da vedere, tutto quanto, questo come dicevamo è la carriera, è il clou, vincerla conta, è il massimo, si fa tutto in funzione di quello, assolutamente. Sì. Però ci eravamo lasciati prima dicendo che pur essendo tre competitori, i cavalli sono sei. Allora io chiedo a Luca di spiegarci perché. Come funziona? Cioè la gara è una, a metà fanno staffetta, si danno lo zoccolo e parte l'altro? No, sono sei cavalli, sei accoppiate, però ovviamente cioè, due accoppiate per ogni rione. Ok. E gara è unica, non è che c'è staffette o cose di questo genere, quindi sono tutti e sei al canape, e a differenza di sera non c'è rincorsa, e sono chiusi nel secondo canape, e c'è la mossa... con il muster appunto dalla mossa e sono quattro giri del percorso dell'anello di Piazzale Garibaldi, del parterre, però il fatto che siano tre o sei alla fine della corsa cambia poco, cambia la strategia all'interno dei canapi ovviamente. Beh, questo è affascinante davvero, ora che, mi vengono mille domande. Come diceva Rossano, che questo elemento del raddoppio delle accoppiate all'interno dei canapi genera un elemento di spettacolo e anche di incertezza più ovviamente. Tra l'altro, infatti, la mossa è anche uno dei momenti forse più... il momento più importante. Più importante, che genera quella tensione che alla fine poi è il momento più bello, anche oltre che più importante. Ah, certo, che... Le mossa Castiglioni poi non sono mai brevi. Non sono mai brevi. Ma scusate, ora faccio delle domande veramente random, voi abbiate pazienza. Sì, sì, c'è un'estrazione comunque per all'interno della mossa. Cioè, l'estrazione però è l'estrazione di tipo simmetrico. Una estrazione. Quindi primo... quattro, secondo, quinto, terzo. Perfetto. Ora io dico questo, abbiate pazienza, ma se io ho due cavalli, no? Il mio rione ha due cavalli e siamo primi e secondi, il secondo fa tap. Cioè fa proprio tap. Sì. Io mi metterei in traverso. È quello che dovrebbe essere traverso, non ci può mettere. Ecco, in maniera lecita. Però esatto. Puoi ostacolare. Fermo restando, una cosa che forse parecchi non c'entrano mentalmente. Quello che ha detto Michele è sacrosanta verità. Di traverso non ti ci commento. Ma se per caso decidi di farlo e questo comportamento ti fa vincere il palio l'hai vinto. Dopo magari non correrai per tutta la tua vita. Oppure prendi la multa, ma l'hai vinto. L'hai vinto, cioè nessuno ne mette cascato il canapè tutto. Lecito. Dopo ci saranno le sanzioni, quello che si fa, multe, squalifiche, però poi le vinto. È tutto lecito. Quindi, ragazzi, io, scusa, non ho capito una cosa perché forse mi è saltato un passaggio. I cavalli, capita spesso. Come sempre. I cavalli sono del rione? Sì, sì. Cioè in che senso sono? Di proprietà? Cioè chi li presenta? No, non c'è una tratta, cioè non c'è un'assegnazione, un'estrazione. Faccio un esempio. Il rione sceglie il fantino e il cavallo. Deve essere a una differenza razza di del paio, che il vero del paio di Siena, che c'è un'estrazione a Castio e Ferentino, il rione sceglie il suo cavallo, i suoi cavalli, perché e i suoi fantini, poi, non sono due, perché sono tre, perché c'è quello di riserva. È solo da decidere l'ordine, è solo da decidere l'estrazione al canale. Perfetto. Il primo, il secondo e il terzo. Il primo, il secondo e il terzo è chiaro che, per esempio, siccome ci sono due fantini, se viene chiamata Porta Fiorentina e ci vado io, per esempio, e accanto a me c'è un altro sempre di Porta Fiorentina, dopo viene fatta la mossa falsa, no? Non è che quell'altro di Porta Fiorentina può andare al mio posto e io vado al suo. Portanto. Cioè io ormai entro dentro e quello... Al primo ingresso tu, Pinco Pallino, acquisisce la posizione. Non è che dopo io sono in... cioè il mio compagno, tra virgolette, è Antonio. Non è che Pinco Pallino e Antonio si possono scambiare. Ok, Pinco Pallino è il primo, il secondo e il terzo. Antonio, il quinto e il sesto. Faccio un'altra domanda, non finiamo più, quindi niente musica. Allora, no, rimaniamo proprio sulla carriera. Scegliete come in Formula 1 un primo e un secondo fantino, oppure cioè, si punta più su uno che su un altro? Cioè, te c'hai due cavalli, sono sì. Uno è più buono, uno è meno buono. Sceglierete a chi dare quello, quell'altro? Ma, per me, cioè, il discorso è questo, le caratteristiche poi dopo uno le sceglie in base a quello che deve fare. È logico che magari uno può scegliere un fantino che magari è più un partente, l'altro invece che è un fantino che è più abituato a fare servizi a canapi, che riesce un attimino a penalizzare gli altri. Nulla vieta che uno vada con due partenti oppure con due a fare il servizio. È capitato, non è che non è capitato. Perché se magari ci sono delle ruggini tra rioni... cioè, i fantini sono come i calciatori. Ognuno ha delle caratteristiche. Non le puoi... cambiare. Cavallo stesso anche, C'è il fantino c'è quel fantino che è un partente e c'è quel fantino che fa il servizio. Ma anche i fantini in questo caso possono cambiare, capita che cambino rione, ma da un anno all'altro? Non c'è una fedeltà. No, una... i fantini dalla faccia, sì. Credo che tutti debba limitare. Cioè, ti dico questo e giuro, i fantini vanno picchiati anche quando vincono, perché, sempre, perché se vincono che volevi fare? Volevi perdere? Beh. E lui vanno picchiati, no? Vabbè, mi fermerei. Allora, è una filosofia che magari può tornare giù, però sono professionisti, certo, cioè, io li rispetto, sono stato nello staff paio per un sacco di anni, per l'amor di Dio non ho mai fatto niente, però... Sono così, ma sono professionisti. C'è meno sentimento nel loro approccio a... Dopo c'è quello che si affeziona di più, quello che invece non gliene frega niente. Sono persone, Certo. Fanno i propri interessi, è così, però... Guarda, fermiamoci ancora. Però va picchiato. Questo caro ricordo del Fantino. Andiamo col prossimo brano, parliamo ancora un po' della carriera e poi ci addentreremo anche su tutte le altre, sui collaterali. Ma andiamo con il prossimo brano. E tanto ricordate che va picchiati in generale. People sit bellissima, eh? Nightwish City Limits. E questo l'ho detto anche, leggendolo per la prima volta in vita mia, anche, tra l'altro. Anche il titolo è bellissimo. Allora, sempre, sempre Piazza Alta, sempre palio dei rioni di Castiglione Fiorentino. Ricordiamo che siamo con gli ospiti rappresentanti ognuno dei propri rioni. Per il Cassero abbiamo Michele Falomi come vicepresidente. Per Porta Fiorentina Rossano Gallorini, responsabile della comunicazione. E per Porta Romana Luca Trippi, responsabile delle pubbliche relazioni. Con loro ci siamo addentrati, abbiamo prima parlato della parte storica. Adesso ci stavamo raccontando della carriera, che anche un po' della gestione della, diciamo, sia del cavallo che del fantino. Ma infatti è bellissima, no? Allucinante, nel senso che è interessantissimo il fatto che corrano sei cavalli e sei fantini, due per ogni contrada. Quanto, beh, ecco, è quanto dura? No, no, va bene. No, va bene anche il contrario. Quanto dura? Quanti, ecco, giri? Sono quattro giri. Quattro. Voi, per voi è importante cronometrare? Non credo, cioè nel senso... No, sono dati statistici. Sì, esatto. Vincere anche in un giorno, insomma, no. Vincere in un giorno, nel 98 perdere... ci siamo andati vicino. Sì. Ecco, infatti volevo chiedere anche queste curiosità. Per esempio, appunto, la mossa influisce nella durata, è tutto lì, insomma, è tutto lì. È il momento più lungo, più sì, particolare. Più stremato. Il 90% del palio è la mossa. E il mossiere chi è? Che caratteristiche deve avere? Questo santo o questo sciagurato deve pigliare. È un ex fantino. Il mossiere si spera sia un professionista, cioè una persona che lo sa fare, perché è, cioè per noi è quello che a volte decide il tuo destino, determina tutto. Perché se da buona una mossa che sei secondo o penalizzato rispetto a una che sei primo e avvantaggiato, è diverso. Guarda, io non mi ero riproposto nella preparazione di questa puntata di non fare confronti con il Palio di Siena, perché non mi sembra giusto, però una cosa l'avete detta: voi non avete la rincorsa, sì, perché è quella che nel Palio di Siena determina ore e ore. Perfetto. Come, perché invece da voi, cioè qual è il motivo per cui non si parte se non c'è uno che deve entrare? Perché, perché essendo in sei ce la mette nei 36, ce la mette sei, e soprattutto ce la mette nei sei, d'accordo, che non è proprio semplice. No. Scusa, tu hai detto metterne d'accordo, ma non sarà soltanto una questione di posizione, simmetria, no? Nel momento in cui sono tra i canapi, che sì, succede? Tutto e il contrario, tutto. Perché la leggenda vorrebbe anche di accordi, cose varie, si può dire. Vabbè, i partiti cioè non sarebbero ammessi, ma è inutile negarlo. Ok, perfetto. E quindi anche quello ci sta, insomma. Ma allora scusa, mi viene ancora un'altra domanda. Perché cioè tra di voi, tra voi tre, diciamo, c'è, non so, lo stesso tipo di, tra virgolette, perdonate, amicizia o rivalità? O c'è qualche rione che non si può vedere un po' più con un altro? Ma o no, 33 tutto dall'uscita dei cana? No. Sono gli equilibri che cambiano. Viene determinato da quello che si diceva prima, dai 365 giorni prima, o in tanti casi dai 720. Situazioni che attualmente come siamo? Un po' in equilibrio? Posso dire che negli anni 80, questo è sicuro, insomma, in realtà i rioni che faceva la padrona erano due, che sono Porta Romana e Porta Fiorentina, in mezzo c'era il Cassero, e diciamo che la situazione era una situazione proprio sociale, perché, ecco, cosa intendi, cioè, proprio? Perché è molto semplice, l'estrazione sociale dei rioni, in questo caso Porta Romana e Porta Fiorentina, è proprio opposta, perché a Porta Romana vivevano i nobili, i grandi latifondisti, cioè la vecchia nobiltà di una volta, a Porta Fiorentina c'era la borghesia, capito? Cioè, dunque era una lotta proprio sociale per chi doveva comandare, e questa cosa se tirata avanti fino ai giorni. Il Cassero, come ha detto prima Rossano, infatti, è forse a metri quadri. Sì, sì, infatti. Il più grande, ma non però il meno popolato, sì, sì, è quello che fa parte della campagna, sì, sì, okay. È il rione della campagna, sì, è il rione della Valle di Chio, e quindi sulla carta per estrazione sociale, certo, era tra virgolette, il leone povero. Sì, okay. Sì, sì. No, e quindi, quindi doveva, tra virgolette, dare in colpo a cerchio una la botte. Doveva stare quella... con chi faceva più comodo, era normale. Con no? Quello che fondamentalmente quell'anno gli poteva dire, va bene, ora... Ma questa è storia, cioè certo, non è che sono certo, mischiarate. Il vecchio motto contadino cervello fino, di anno in anno veniva un po' applicato. Così faceva. Quando trovavano, tra virgolette, le due accordi, il Cassero stava a guardare perché non aveva la potenza lì. Questo è successo fino agli anni 80, primi anni 90. Dal 2000 in poi sono cambiate un po' le gerarchie, ma... questo non vuol dire che, come diceva giustamente prima Michele, che magari se vada d'amore d'accordo tutti e tre e poi dopo succede una bischerata e si guasta tutto, cioè, esatto. E dopo arrivi al palio e dici guarda io non vincerò, però ma manco loro, capito? E succede questo, è successo. Guarda, siccome dobbiamo parlare anche appunto di tutti i vostri eventi che io continuo a chiamare collaterali, ma insomma che sono fondamentali, però un'altra domanda mi viene, siccome avete parlato di un palio in cui siete partiti quasi a notte fonda, no, non più so, di una volta, più sì, di una sì, volta, qui, i casi più diciamo proprio epici che sono rimasti nella storia, delle mosse lunghe, o mosse lunghe, o anche gare particolari dove sono successi eventi l'anno scorso, ecco. Quindi raccontate. L'anno scorso è un possiamo Rossano, mai passare. Rossano è un anno che gli dà fastidio. Però l'anno scorso è stata la seconda volta, credo, che a Castiglione Fiorentino vince quello che a 50 metri dal traguardo è secondo. È la seconda volta, sì, perché la prima è stata nel 99 sì, quando vinse la Porta Romana per mezzo re. È successo. È stato il cavallo. Il cavallo si è, in gergo tecnico si dice inchiodato. Esatto. Il secondo cavallo la Svezia, andava al doppio. Il doppio. E quindi chi era il primo se non sapevo qui? Sì, il primo l'ho capito. Ho preso una purga colossale. Però ora, visto che lui ha ricordato questa cosa qui, cioè è giusto, per l'amor di Dio, io la sera stessa di andare, ma è giusto. No, ma alla svelta anche perché certo. Tra l'altro lasciamo perdere, fu proprio una giornata per me allucinante, soprattutto dopo, ma insomma vabbè. Però lui fa bene, io però mi devo, cioè una cosa questa me la devono bypassare anche loro. È vero che si parla di qualche anno fa, però il palio come detto io nel 2011 non lo rivince nessuno. Cioè, allora perché a questo punto no, è stato il palio del secolo, lo chiamo così, io un palio da manicomio l'ho soprannominato. Ma dici qualcosa? No, c'era un accordo lampante tra gli altri due, proprio lampante, per non ci far vincere, ma lampante, è proprio una cosa con le catene, no, una cosa. Il nostro Fantino invece stranamente ha fatto il suo fino all'ultimo e l'ha gessato e siamo andati a vincere, c'era la piazza intera incredula. Però devo ammettere che quando finì il palio, questo è tradizione, quando finisci il palio fai il giro del paese, va bene, perché comunque hai vinto e dunque comandi, punto. Certo. Io mi ricorderò benissimo, a parte quando si arrivò su al Cassero, se non erro ci furono diverse persone che ci applaudirono perché al di là di tutto si era vinto un super palio. Porta Romana, che era quella che doveva vincere praticamente, che erano tanti anni che provava e quant'altro e tutto, loro ci spiegarono le bandiere quando si arrivò a Porta Romana. Fu un atto, fu un atto veramente incredibile. Infatti mi ricordo si passò, si applaudì anche, perché quello fu un palio clamoroso. Loro si resero conto che sarà vinto un gran palio e rispettavano onore delle armi, ecco, esatto. Quello sì, però. Luca, in quanto rappresentante qui di Porta Romana, dici te un palio invece che ti ricordi con particolare piacere? L'ultimo sicuramente, allora, l'ultimo è sempre quello che si ricorda con più piacere, giusto, secondo me. Giusto. Anche perché lui diceva il 2011 dovevamo vincere da tanto tempo, il 2013 ancora non si era vinto, quindi siamo arrivati lì e insomma fu una bella giornata per tutti, finalmente la liberazione, perché poi la nostra storia è stata una storia particolare, perché noi dal 2002 al 2013 abbiamo vinto il palio nel 2009, ma è stato un palio molto particolare purtroppo, abbiamo corso con solo due accoppiate, a notte fonda, c'è stato un po' di problemi che adesso non sto nemmeno più a, a riportare. A dire la verità, con Ducavalli. Con Ducavalli, esatto. Noi non abbiamo partecipato. Quel paio ce l'abbiamo in sede, però ovviamente vincere il 2013 è stata una vera liberazione. Rossano ha detto la parola giusta, perché finalmente ci siamo in qualche modo lavati delle punte prese nei 10 anni. Io mi sono permesso di dirlo perché sono loro i primi che lo dicono. Sì, no. Certo. Racconto un aneddoto così per fare una risata. Nel 2002 doveva vincere Porta Fiorentina, invece vinse Porta Romana. Io me l'ebbi parecchio al culo, diciamo così, lo posso dire. Per usare un francese. Gli mandai una maledizione, speravo che per 10 anni non vincessero il Palio. Attenzione, ed è così è andato. Praticamente. Io spero che questa trasmissione ti sia particolarmente simpatica. Mi viene in mente che l'ho stressato per 3 giorni, ma era solo per organizzare la trasmissione. Mandiamo un altro brano e poi finalmente parliamo anche di quello che sta succedendo in questi giorni, che succederà nei prossimi. E degli eventi. Esatto. Hey, you got your boob in my scotch. Woo! Della stirpe dei Bob Log, questo era Bob Log terzo. No, non lo so, ma si chiama così. Io mi perdonerete se la mia ignoranza. Cantava insieme a Cariatide. Questa comunque era Boob Scotch. E io non direi altro, era un brano del 2003. È una declinazione di Bob Log. Un artista invece veramente ganso, direbbero da queste parti, e che Simone ieri sera ha avuto il piacere di vedere live. L'ha anche incontrato di persona. È vero, lei ci hai parlato? No, parlare no. Ma non parliamo. Ti sarebbe piaciuto e questo non ne dubitavamo. Allora, siamo arrivati alla fine, ma non è una fine, proseguiremo perché dobbiamo parlare. Siamo arrivati al punto focale della situazione, sì, perché diamo l'appuntamento per il Palio dei Rioni a Castiglion Fiorentino, che è la terza domenica di giugno, quindi il 19 di giugno. Ma tutto questo è solo l'apice, appunto, degli eventi. Io direi. Il Palio e l'apice, esatto. Quello che abbiamo detto finora è un po' il prologo, sì, e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che cosa succederà? Allora iniziamo, guarda, con Michele Falomi, che è vicepresidente, ricordo, del Rione Cassero. Raccontaci un po' quello che vuoi su quello che sta succedendo, succederà, è successo al Cassero. Allora, fondamentalmente il Cassero è il rione che arriva al palio in corsa. Perché? Perché noi da venerdì prossimo, quindi dal 27 di maggio, iniziamo con la nostra festa principe, con la manifestazione che fa da punto di riferimento per il rione, che è la festa medievale bianca-azzurra, il 27, il 28 e il 29, e si ripete dal primo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 giugno, al piazzale della Torre del Cassero, quindi sotto il nostro simbolo come dicevamo all'inizio, con il 5 giugno alle 23 lo spettacolo pirotecnico sotto la torre. È forse l'appuntamento nostro più importante. Uh-huh. Da lì andiamo direttamente all'11, che c'è la gara degli sbandieratori, e dal 12, che è la domenica, fino alla domenica 19, iniziano al circolo, al canapo, tutte le attività in attesa del palio. E quindi la settimana pre-palio, con tutti gli appuntamenti, ogni sera un evento diverso, evento a tema, che noi stiamo organizzando con il gruppo giovani. E quindi siamo il Cassero, in questo momento io sono qua in camicia e in jeans, anche se non mi potete vedere, ma 30-40 persone sono sul piazzale a montare, perché il tempo in questi giorni non ci ha fatto un gran favore. Siamo riusciti a montare la cucina nell'unica pausa di bel tempo giovedì mattina, e poi per il resto stiamo correndo contro il tempo, perché venerdì prossimo si inizia. Vi aspetto tutti alla festa medievale dal 27 al 29, 1, 2, 3, 4 e 5 giugno. Non mancheremo. Bene, come vedete, quindi l'impegno e la fatica è tanta per tutti i rioni. Passiamo a Porta Fiorentina. Rossano, raccontaci un po'. Diciamo che oltre agli avvenimenti, come ha detto Michele, quelli che coinvolgono tutti e tre i rioni, che sono la gara dei musici sbandieratori, chiaramente, che è il sabato della settimana precedente al palio, ci sono anche, voglio ricordare, è in corso attualmente il torneo di calcetto tra rioni, che se non erro la prossima settimana, martedì c'è Porta Romana e Rione Cassero, e poi il 30, e poi dopo ci sarà la finale, che invece è il 14. Nel frattempo ci saranno anche il torneo dei bambini e il torneo degli adulti a 11. È già passato il torneo di pallavolo, che l'ha vinto il Cassero. Poi, per quanto riguarda invece il discorso prettamente personale del terziario Porta Fiorentina, veniamo da domenica scorsa, in cui c'è stato il secondo raduno di moto enduro d'epoca, e che purtroppo il tempo non ci ha aiutato tantissimo, però comunque è già il secondo anno che lo facciamo e siamo molto soddisfatti. Poi domani un nostro fiore all'occhiello, perché ci teniamo tantissimo, c'è il banchetto medievale dentro il chiostro di San Francesco, un chiostro del 1200 bellissimo. Mi piacerebbe che i radioascoltatori potessero venire, ma è impossibile perché è pieno ormai da 15-20 giorni più o meno, dunque rimandiamo per l'anno prossimo. Tutti gli anni, è la 14ª edizione questa qui, tutti gli anni è sempre così, ci fa tanto piacere, mi dispiace perché più di 150 persone non c'entrano, insomma, certo. Ecco. Poi dopo, per quanto riguarda il discorso di avvicinamento al palio, come il Cassero, anche noi facciamo la settimana con i nostri eventi tutti i giorni, come fa anche Porta Romana, insomma è ormai una tradizione consolidata per tutti e tre. Noi in più abbiamo la cena della stalla, che di solito la facciamo la cena della stalla con la benedizione il 2 di giugno. E poi arriviamo al palio con la classica cena propiziatoria, che è il sabato precedente, che invito tutti, magari a chi è interessato, a poter contattare direttamente le mail del Rione, info@terziarioportafiorentina, per qualsiasi tipo di informazione, oppure guardare la pagina Facebook del Terziario Porta Fiorentina. Tra l'altro tutti avete una vostra pagina Facebook, un sito internet facilmente raggiungibile. Poi successivamente noi abbiamo due eventi clou, che sono uno a Bisteccanno, che sono gli ultimi due fine settimana di agosto o il primo di settembre, ora non mi ricordo, mi sembra di sì che quest'anno viene il primo di settembre, domenica. E poi abbiamo gli ultimi due fine settimana di settembre, invece abbiamo i giorni di Bacco, che è una festa del vino chiaramente, mentre quella di prima era la bistecca. Poi dopo, durante l'anno, facciamo tutti comunque le attività, dalle cene, certo, ai Babbi Natale, alle famiglie, insomma. Quindi cioè, l'attività 365. Esatto, non è assolutamente... Questo vale per tutti. Esatto. Il rione non va in ferie. Non si ferma mai. Okay. No. E il problema che diceva prima Michele del tempo, lo conosco benissimo, perché te pensa, noi domani, è vero che noi siamo al coperto, ma è altrettanto vero che quando devi prendere tutta la roba da magazzini, ce la portare là su, la molli tutto. Conosco benissimo quello che dice Luca. Luca, invece Porta Romana? Allora, Porta Romana, per quanto riguarda gli appuntamenti durante l'anno, se noi siamo un po' al rione dell'inverno, infatti più che le magliette dovremmo comprare le felpe, perché abbiamo una festa a novembre, il November Fest, che si ispira un po' simpaticamente all'October Fest, okay. E a febbraio abbiamo la festa della pizza, pane, pizza e fantasia. Per quanto riguarda gli appuntamenti in avvicinamento al Palio, maggio noi l'abbiamo già passata la festa, abbiamo dei festeggiamenti che si concentrano attorno all'8 maggio, che è San Michele, patrono di Castiglione Fiorentino. È uno dei momenti in cui Porta Romana ha l'onere e l'onore soprattutto di accogliere tutta la cittadinanza nel nostro territorio. E passato questo evento, adesso abbiamo il 28 maggio, abbiamo il cenino dei 25 giorni al Palio. E poi da lì si andrà direttamente alla settimana pre-palio, che ci tengo a precisare appunto alcuni appuntamenti. Come abbiamo domenica 12, abbiamo il pomeriggio per i bambini con la possibilità di partecipare e provare dei pony grazie a un'associazione del luogo. E in serata abbiamo la benedizione della stalla, la presentazione dei caschetti, delle casacche dei Fantini. Poi, per quanto riguarda altri eventi più importanti, abbiamo il venerdì, l'ormai tradizionale Hawaiian Party, anche qui è una festa un po' simpatica, quagliardica, nel quale appunto ci si presenta tutti in costume. E il sabato, ovviamente, la cena propiziatoria. E per quanto riguarda il sabato, è la nostra tradizione di Porta Romana, questa sfilata agreste che partendo dalla piazza del collegio arriva in piazza prima della provaccia. Adesso c'è qualche cambiamento dal punto di vista del regolamento, però insomma verrà sempre comunque sia fatta la prova al sabato, con tanto di benedizione dei cavalli nel vicolo dei Galli. E ovviamente poi anche noi in questo caso invitiamo tutti quanti a partecipare ai nostri eventi, in particolare per quanto riguarda la cena propiziatoria, essendoci le tessere numerate, insomma, a informarsi tramite Facebook, email, numero di telefono per prenotare il posto. Questo è quanto, insomma. Benissimo, io direi che gli eventi sono cioè se una voglia tutte le sere c'è da stare a Castiglione Fiorentino. Non abbiamo dato il dettaglio, perché se si dava il dettaglio diciamo che bisogna venire a Castiglione e vivere tutto questo periodo con rispetto. Da sabato prossimo vi trasferite e provate, iniziate a vivere le settimane pre-paio, i rioni. Noi ci riproponiamo di farlo assolutamente. Ora tutte le sere sarà difficile, però diciamo qualche sera sicuramente proveremo a passarla con voi. Abbiamo sforato e non abbiamo detto quasi niente, ma insomma abbiamo dato solo un'indicazione di quello che può essere veramente la vostra manifestazione. Diamo un appuntamento anche noi a venerdì prossimo, Radio F, ancora per Piazza Alta, con un altro argomento, vedremo ancora. Un argomento interessante anche. Grazie ancora allora quindi a Michele Falomi per il Rione Cassero, a Rossano Gallorini per il terziere di Porta Fiorentina, e a Luca Trippi per il Rione di Porta Romana. Grazie a voi. L'appuntamento è appunto il 19 di giugno come evento finale più importante del Palio del Rione di Castiglione Fiorentino. Ringraziamo per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti, buona serata. Ringraziamo chi ha avuto la pazienza di ascoltare noi, ma noi intendo noi due, perché loro erano interessanti. Sì, ogni tanto abbiamo disturbato. E rimandiamo appunto l'appuntamento a venerdì prossimo. Basta, così. Ma da quando è? Da 1976. E allora dico sigla e poi la faccio. Sigla! Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica e alle riprese video, Simone. Une. A venerdì prossimo. Ossimo.